Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, buonasera e ben ritrovati a questo nostro appuntamento mensile che si propone di ripercorrere dall'inizio alla fine il Vangelo di Marco. Insieme siamo arrivati al capitolo 10, quindi chiedo a quanti sono nella possibilità di farlo di prendere un'edizione della Bibbia o dei Vangeli e di aprirlo al capitolo 10 del Vangelo di Marco in modo da poter seguire insieme a me la riflessione che condivideremo. Chiedo allo Spirito Santo di illuminare questa nostra ora e mezzo insieme. Tutti noi veniamo da una giornata fatta di impegni, di fatiche, di momenti di soddisfazione. Ecco, possa questa parola illuminare non solo quanto oggi abbiamo vissuto, ma quanto anche ci prepariamo a vivere. Chiedo il sostegno anche di alcuni tra voi ascoltatori, soprattutto quelli che in questo momento vivono una pagina di sofferenza caratterizzata da tanti perché. Ecco, chiedo a queste persone di offrire insieme a me al Signore questa ora e mezzo, il dolore magari di questi interrogativi che restano senza risposta, sapendo che niente di quello che ho offerto al Signore resta infecondo. Iniziamo quindi, come è nostro solito, a leggere il testo e a commentarlo. Vorrei riprendere brevemente quanto ci siamo detti la volta scorsa. La volta scorsa ci siamo confrontati sul brano del cosiddetto giovane ricco, di fronte al quale Gesù aveva mostrato le esigenze della sequela, una sequela che richiede un forte impegno e dei forti sacrifici da parte di chi lo seguiva. Il brano su cui sosterremo oggi, dal versetto 28 del capitolo 10 in poi, ci mostrerà la reazione dei discepoli di fronte al discorso che Gesù ha fatto e di fronte al suo incontro con l'uomo ricco. Vedremo che la reazione dei discepoli è ben puntualizzata dall'Evangelista, che prima ci presenta la reazione di Pietro, poi la reazione di Giacomo e Giovanni, infine la reazione dell'intero gruppo dei dodici. Quindi è un po' come un movimento a piramide che inizia da un punto unico, il confronto tra Gesù e Pietro, per poi allargarsi e coinvolgere l'intera comunità dei dodici. In queste tre tappe che vedremo insieme emerge sempre una provocazione da parte del Maestro nei confronti dei discepoli che tocca anche noi in modo particolare. Tocca anche noi soprattutto in questo cammino di preparazione alla Pasqua di risurrezione, perché viene proprio messo al centro la capacità di essere come Gesù nel donare la vita per il bene di molti, come ascolteremo alla fine del nostro brano. Quindi cominciamo ad ascoltare il primo brano, i versetti 28-31 del capitolo 10. Li ascoltiamo insieme. Pietro cominciò a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Rispose Gesù: «In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e nella realtà futura la vita eterna. Tuttavia, tutti coloro che sono primi saranno ultimi e gli ultimi primi». Bene, cominciamo con questo primo movimento, questo primo brano che ci mostra la reazione del gruppo dei dodici, vale a dire la reazione di Pietro, che in genere è sempre colui che reagisce, interviene in prima persona. La prima cosa che emerge dall'intervento di Pietro è la differenza che esiste tra la prima parte della risposta di Gesù e la seconda parte della risposta di Gesù. Se voi notate, Gesù dice: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi. Cioè Gesù identifica una cosa che uno può lasciare in occasione della sequela. Ecco, a chiunque lascia un aspetto, una dimensione della sua vita per seguire Gesù, il centuplo che gli viene promesso non caratterizza solo quella cosa lì, ma quella cosa e tutte le altre insieme. In altre parole, se nella prima parte della risposta di Gesù c'è la O che indica o una cosa o l'altra, quindi o la casa o i fratelli o le sorelle o la madre, nella seconda parte della risposta troviamo la congiunzione E. Per cui Gesù dice: se tu lasci per esempio la casa, riceverai il centuplo qui in questa vita in case, poi anche fratelli, sorelle, madri, figli, campi. In altre parole, la sottolineatura di Gesù alla domanda di Pietro è quello che niente viene lasciato per Gesù che non si traduca immediatamente nel centuplo di tutto ciò che uno già possiede. Quello che Pietro dovrà ancora capire o interiorizzare è cosa significa lasciare una cosa, perché a volte uno ha l'impressione di lasciare qualcosa per seguire Gesù, ma poi ciò che ha lasciato dalla porta se lo riprende dalla finestra. E anche Pietro rischia questo, come vedremo andando avanti nel nostro commento. C'è anche un altro elemento da sottolineare nella risposta che Gesù dà, cioè nelle due parti della risposta di Gesù. Non viene citato il padre, cioè tra le cose da lasciare c'è il padre, ma tra le cose di cui il discepolo ha il centuplo non c'è il centuplo in padri, c'è il centuplo nelle madri, ma non nei padri, perché questa mancanza nelle due parti della risposta di Gesù. Perché il padre nel cammino proprio del discepolo deve essere uno solo, deve essere il Padre Celeste, deve essere Dio. Quindi uno abbandona un padre non per avere davanti a sé una molteplicità di punti di riferimento che rischierebbero di frammentare la sua esistenza, ma riceve il centuplo di tante cose, ma avendo sempre come unico riferimento la paternità di Dio, Dio Padre. Quello non solo è l'unico punto di riferimento, ma è anche l'elemento che garantisce l'unità del centuplo che il discepolo riceve. C'è poi un altro aspetto che merita di essere sottolineato. Tra le cose di cui non si parla nell'elenco degli elementi da lasciare o delle persone da lasciare, non vengono menzionati i rapporti marito-moglie, cioè non viene chiesto al discepolo di lasciare la propria moglie o il proprio marito. E questo ci fa capire la profondità con cui gli evangelisti, in questo caso Marco, che vive in un contesto sia giudeo che pagano cristiano, con cui gli evangelisti colgono la visione della coppia. Abbiamo già avuto modo di vederlo durante la narrazione, ma Marco era già intervenuto per sottolineare che i due diventano una cosa sola, secondo il progetto delle origini. Quindi l'aderire a Cristo di uno implica l'aderire a Cristo dell'altra persona. Se questo non avviene, l'altra persona non deve essere comunque lasciata perché non ha aderito a Cristo, come dirà molto bene poi Paolo nelle sue lettere. Quindi la sottolineatura di questa pagina che merita di essere evidenziata è proprio il profondo rispetto del legame marito e moglie. I due diventano una sola cosa. Ultimo aspetto da evidenziare in questo accostamento tra i due elenchi c'è la sottolineatura finale. Gesù dice: uno riceve 100 volte tanto in tutte queste cose, quindi case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, poi aggiunge insieme a persecuzioni. Provate ad andare a controllare nei brani evangelici paralleli a quello di Marco, così come c'è in Luca o in Matteo, noterete che questo inciso insieme a persecuzioni è esclusivo di Marco, è una sottolineatura tipicamente marciana. come mai Marco tiene a sottolineare l'elemento delle persecuzioni? Qua gli studiosi hanno cercato di dare le risposte più diverse. C'è chi dice Marco sottolinea questo perché la sua comunità viveva un momento di persecuzioni. Altri dicono che Gesù forse nell'intervento ritenuto da Marco voleva frenare l'entusiasmo di alcuni che volevano unirsi al gruppo dei dodici senza tanto conoscerne le conseguenze. Oppure il maestro voleva assicurare la presenza sua nella comunità anche nei momenti più difficili. Sono tutte interpretazioni che possono essere accolte, hanno dei loro motivi di sostegno, di validità, però a mio avviso non colgono l'essenziale. L'essenziale è che la sequela di Gesù non può escludere la croce. E quindi di fronte a quello che Pietro sta dicendo indirettamente, perché quando Pietro si rivolge a Gesù e gli dice noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, è chiaro che da questa osservazione c'è una domanda indiretta che soggiace a questa sottolineatura, cioè cosa avremo in cambio? Altri evangelisti evidenzieranno questa domanda, Marco non lo fa, però è chiaro che Pietro ha sotto sotto questa domanda. E Gesù gli ricorda che non hanno solo il centuplo, ma devono mettere in gioco nel momento in cui seguono Gesù la logica delle persecuzioni. Questa logica delle persecuzioni come va colta? Va colta alla luce delle pagine dell'Antico Testamento. Ricordiamo che il primo modo per comprendere correttamente le scritture è leggere le scritture con le scritture stesse. Quindi, ed è anche la prima metodologia con cui Gesù stesso interpreta alcuni passaggi delle scritture. Interpreta la sua esperienza alla luce dell'Antico Testamento o interpreta alcuni passi alla luce di altri. Così va compresa questa pagina delle persecuzioni. Se noi prendiamo in esame le grandi figure dell'Antico Testamento evocate da Gesù stesso, faccio riferimento a Mosè, a Elia, a Geremia, a Daniele, al servo sofferente di Isaia, tutte figure che vengono evocate nell'insegnamento di Gesù, noteremo che tutte queste figure hanno avuto una vita, certo di sequela di Dio, ma una vita profondamente travagliata. Prendiamo il caso di Mosè. Mosè è chiaro che è il grande paladino che porta il popolo fuori dall'Egitto, quindi insieme a Dio gli restituisce il dono della libertà. Ma non dimentichiamo che Mosè deve mettere in gioco, sacrificare per certi aspetti la sua vita per il popolo, al punto tale che lui non entrerà nella terra promessa, la vedrà solo da lontano. Tra l'altro la liturgia oggi ci presenta una pagina stupenda del rapporto tra Mosè e il popolo, dove Mosè sembra quasi lottare con un Dio che non ne può più e sembra voler rifiutare il popolo. E gli dice, ma vai, scendi da questo monte, il popolo si è pervertito, il tuo popolo che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto. E Mosè rincalza Dio dicendo, no, non è il mio popolo, è il tuo popolo, tu lo hai fatto uscire dal paese d'Egitto. E tu devi essere fedele a quanto hai compiuto con Abramo, Isacco, Giacobbe, ricordati di quello che hai fatto, perché questo è il tuo popolo. Cioè, questo ci fa capire come la sequela di Dio richiede un sapersi far carico del popolo, cosa che non è per niente scontata. Cioè, è facile prendere un incarico all'inizio, ma poi quando l'incarico comincia a pesare sulle spalle e si comincia a sentire la croce che pesa, viene spontaneo dibattere con Dio, proprio come Mosè nella liturgia di questa mattina. Altri casi evidenti sono quelli dei profeti che ho citato, pensate ad Elia. Tra l'altro Mosè ed Elia sono i due grandi profeti che sono sul monte della trasfigurazione insieme a Gesù. Elia, dopo la grande vittoria sui profeti di Baal ai piedi del monte Carmelo, si trova a dover constatare che non ha convertito quello che lui voleva convertire, cioè la regina Jezabele. Ed ecco quel lungo cammino, quel grande percorso di 40 giorni e 40 notti in cui Elia è in preda alla depressione, vuole lasciarsi morire. E ci vuole un angelo a svegliarlo e a metterlo in cammino, a sostenerlo nel cammino, finché arriva al monte di Dio, l'Oreb, e a quando arriva lì si lamenta con Dio. Cioè, sono pagine che ci permettono di capire come la vita dei profeti fu una vita difficile, complessa, tormentata. E ancor più questo si verifica con altre figure. Pensiamo a Geremia. Geremia, l'uomo che maledice chiunque in un momento delicato come il preesilio cerca rifugio fuggendo in Egitto, lui annuncia la maledizione su queste persone e che chiude la sua vita trascinato a forza proprio in quella terra, proprio nella terra d'Egitto, insieme a coloro che vogliono fuggire dall'invasione dei babilonesi, facendo poi una fine che nessuno conoscerà. Ma sicuramente una fine tragica. Quindi figure che si pongono accanto al popolo, si fanno portavoce di Dio in mezzo al popolo, ma che si trovano ad accogliere non solo il centuplo in case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, ma il centuplo anche in persecuzione. E la conclusione di questa risposta di Gesù a Pietro sta in quell'inciso, quando dice: tuttavia ricordati, tutti coloro che sono primi saranno ultimi e gli ultimi i primi. In altre parole, Gesù sta dicendo a Pietro: guarda che il fatto di aver lasciato ogni cosa per seguirmi e di averlo fatto per primo non è assolutamente una garanzia. Non è assolutamente una garanzia, una sorta di assicurazione sulla vita futura. Uno resta primo se ha la capacità di mettersi all'ultimo posto. Non è il chi arriva primo che prende la parte migliore in questo caso, ma colui che ha un atteggiamento di sapersi mettere all'ultimo posto, di sapersi mettere a servizio degli altri, che riesce sempre ad essere nel giusto atteggiamento della sequela. In altre parole, Gesù spezza quella che è la logica della retribuzione, la logica del do ut des, che molte volte caratterizza ancora il nostro atteggiamento spirituale nei confronti di Dio. Spesso noi, per sentirci benedetti da Dio, c'è tutta la logica del io ti do qualcosa in modo che tu mi dai il contraccambio. Così, quando uno sperimenta la sofferenza, la domanda fondamentale, l'interrogativo più ricorrente è: ma cosa ho fatto di male? Perché il Signore mi tratta così? Cosa ho fatto? Come se il rapporto tra noi e il Signore fosse gestito secondo la logica retributiva, secondo la logica del ti do qualcosa per avere qualcosa in cambio. Ecco, anche Pietro rischiava questo. E Gesù nella sua risposta spezza questa logica, cercando di portare Pietro nel cuore della storia della salvezza, nel confronto con i grandi personaggi biblici di cui accennavamo prima. Prima di passare al secondo brano, facciamo ora un breve stacco musicale, in modo da riuscire a interiorizzare e magari anche a ripercorrere brevemente e personalmente il testo che abbiamo eletto. Dopodiché affronteremo la seconda parte, il momento in cui, dopo la reazione di Pietro, reagiscono insieme Giacomo e Giovanni. Ma diamo un attimo una breve pausa musicale. Dopo l'incontro con l'intervento di Pietro di fronte a Gesù e alle esigenze della sequela, ci confrontiamo con un secondo intervento, che è quello di Giacomo e Giovanni. Ascoltiamo il testo nei versetti dal 32 al 40 del capitolo 10. Erano dunque in cammino per salire a Gerusalemme. Gesù li precedeva ed essi erano pieni di stupore. Invece quelli che lo seguivano avevano paura. Egli, prendendo di nuovo in disparte i dodici, cominciò a spiegare loro le cose che stavano per succedergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, dove il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo tre giorni risusciterà. Si avvicinano a lui Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu esaudisca una nostra richiesta. Egli replicò loro: Cosa volete che faccia per voi? Quelli gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e uno alla sinistra nella tua gloria. Allora Gesù rispose: Voi non sapete cosa chiedete. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Quelli risposero: Lo possiamo. Allora Gesù disse loro: Il calice che io bevo voi lo berrete e il battesimo che io ricevo voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla sinistra non sta a me concederlo, ma è per coloro per i quali è stato preparato. Ecco, in questo secondo brano Gesù approfondisce ulteriormente quello che è stato detto prima. Gesù sta illustrando quello che comporta la sequela. Abbiamo visto, la sequela comporta un lasciare, un ricevere un centuplo, all'interno del quale c'è tutta una serie di persecuzioni. Cosa vuol dire questo? Questo viene illustrato da Gesù nell'annuncio, è il terzo, nell'arco narrativo di Marco, nel terzo annuncio della passione, morte e risurrezione che lo attende. Notiamo che in questo brano Gesù fa subito riferimento a Gerusalemme. Il cammino si presenta come un cammino in salita, non solo perché Gerusalemme è la città posta sul monte, ad una certa altezza rispetto ai altri luoghi della Palestina, e quindi non c'è solo una salita fisica da fare, ma c'è anche una salita spirituale. Gerusalemme, che finora è stata menzionata due sole volte in tutta la narrazione, praticamente era narrata all'inizio del Vangelo, quando tutta la gente lasciava Gerusalemme per presentarsi a Giovanni Battista, e una seconda volta era stata menzionata per indicare le autorità che venivano da Gerusalemme per spiare quello che Gesù faceva e trovare un motivo di condanna contro di lui. Ora la città di Gerusalemme torna in scena per la terza volta, ma torna in scena sotto una luce sinistra. Da un lato Gerusalemme è la città del compimento, ma dall'altro Gerusalemme è anche la città della persecuzione, del fallimento, del disorientamento dei discepoli. Bene, salendo a Gerusalemme e mettendosi davanti ai dodici, Gesù fa capire a coloro che lo seguono che Dio li aspetta lì. Dio ci aspetta nelle città dei fallimenti, nelle città del disorientamento, nelle città del dolore. Non ci aspetta solo nel cammino della sequela ordinaria, dove vediamo i miracoli che lui compie, dove si assiste alla guarigione dei malati, alla soddisfazione delle folle che vengono nutrite. No, questo è una tappa del cammino, ma ce n'è una seconda, che è la tappa della cosiddetta persecuzione, che è appena stata illustrata prima. E Gesù in questo contesto illustra anche in che cosa consiste la persecuzione, l'abbiamo ascoltato in quell'elenco dei verbi. Gesù dice: noi saliamo a Gerusalemme dove il figlio dell'uomo sarà consegnato. Ecco, la persecuzione è un atto di consegna. Dio consegna l'uomo nelle mani, in questo caso, degli scribi e dei pagani, delle autorità religiose e delle autorità pagane. E questo consegnarsi si traduce in situazioni concrete. Ne vengono enunciate ben sei. Viene detto: lo condanneranno a morte, il primo, lo consegneranno ai pagani, secondo, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. In questo elenco di sei verbi, che sembrano poi essere ripresi nel momento del racconto della passione, offrendoci quasi, sembra quasi che Marco ci dà un po' un sommario di quella che sarà la sua narrazione dopo, il settimo verbo compie e conclude all'insegna proprio di un numero che indica il compimento tutto il ciclo delle persecuzioni e termina dicendo: ma dopo tre giorni risusciterà. Ecco il mistero pasquale nella sua completezza, un atto di consegna nelle mani degli uomini e nelle mani di Dio, che comporta da un lato il dolore, dall'altro, proprio perché si è nelle mani di Dio, comporta la risurrezione. Di fronte a questo gesto di consegna, che verrà ripreso anche nel momento in cui Gesù celebrerà quella che noi oggi chiamiamo l'Eucaristia, quando Gesù compirà il gesto dello spezzare il pane, anche lì verrà evocato un atto di consegna. Lo stesso atto di consegna verrà evocato nel Getsemani, quando Gesù si consegna fisicamente a coloro che vengono per arrestarlo. Quindi di fronte a questo atto che indica da parte del discepolo l'abbandono totale nelle mani di un'altra persona, che non è solo Dio, ma è una persona anche negativa, come le autorità religiose che vogliono mettere a morte Gesù, oppure i pagani che sono intrallazzati alla ricerca del potere. Di fronte a questo invito alla consegna, la reazione di Giacomo e Giovanni, quindi prima abbiamo visto quella di Pietro, ora quella di Giacomo e Giovanni, è del tutto opposta e si traduce con una ibris tipicamente umana che caratterizza tutti noi sempre quando il Signore ci chiede una cosa, e che è espressa bene da quel verbo: vogliamo che tu esaudisca una nostra richiesta. Quel vogliamo fa veramente a pugni con l'invito alla consegna che veniva fatto poco prima da Gesù. Tanto vero che questo avvicinarsi di Giacomo e Giovanni, ben precisati, ben definiti, con la posizione i figli di Zebedeo, per non fare confusione con un altro Giacomo presente all'interno del gruppo dei dodici, questa scena crea un certo scalpore negli altri evangelisti. Se voi andate a notare, l'evangelista Matteo modifica la scena, l'evangelista Luca la cancella proprio, ma l'evangelista Matteo modifica la scena e manda avanti la madre, come se è colpa tutto della madre, che si fa avanti e vuole due ruoli ben precisi per i figli. L'unico che presenta le cose suscitando scandalo nel lettore, perché com'è possibile che due persone come Giacomo e Giovanni, che hanno assistito ai momenti più delicati di Gesù, facciano in un momento così una gaffe così grossa? Cioè Gesù invita alla consegna e questi vogliono due posizioni di rilievo che richiamano il potere, quando Gesù li ha appena invitati a stare non ai primi posti ma agli ultimi. Quindi: maestro, vogliamo che tu esaudisca la nostra richiesta. Gesù lascia che questa richiesta sia esplicitata. Ci sembra di trovarsi di fronte al momento pericoloso che avviene in altri momenti della narrazione. Qualcosa di simile era avvenuto al capitolo 6 con Erode e la danza della figlia di Erodiade. Chiedimi quello che vorrai, io te lo darò. Ed Erode era rimasto sconfitto, uno ci aveva rimesso la testa a causa di questo desiderio insano della figlia di Erodiade, del martirio di Giovanni Battista. O poco più avanti avverrà la stessa cosa con Pilato, lì sarà la folla che vuole qualcosa e un altro ci rimetterà la vita, niente meno che Gesù. Ora, qui ci sono due persone, Giacomo e Giovanni, che vogliono qualcosa. E Gesù li mette in guardia, dice: ma potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? In altre parole, Gesù associa la volontà, quel vogliamo dei discepoli, a due immagini ambigue, l'immagine del calice e l'immagine del battesimo. Nella tradizione biblica, ho detto che queste sono due immagini bibliche ambigue, perché nella tradizione biblica sono immagini che hanno un doppio volto, uno luminoso e uno scuro. Bere il calice ha, dal punto di vista del lato luminoso, è un'immagine che indica una profonda comunione con la persona. Quindi Gesù sta dicendo: potete essere veramente in profonda comunione con me? Però bere il calice significa anche assorbire, nella tradizione profetica, l'ira di Dio. Evoca l'ira di Dio. Quindi qualcosa che si riversa sull'umanità. In un certo senso Gesù sembra chiedere a Giacomo e Giovanni: siete disponibili ad assorbire su di sé, su di voi, il peccato con le sue conseguenze, pur di donarvi al mondo, pur di stornare il peccato dal mondo? E l'altra immagine è quella del battesimo. Il battesimo richiama due cose anche qui. Un'immagine più luminosa è il battesimo che indica il cambiamento, la trasformazione, il battesimo in acqua. Ma c'è anche un altro battesimo che viene evocato tra l'altro nell'insegnamento di Gesù stesso, ed è il battesimo di sangue, il martirio. Quindi Gesù sta dicendo: siete pronti non solo a rinnovare la vostra vita con me e quindi a inaugurare un nuovo regno come quello che probabilmente Giacomo e Giovanni si aspettavano, ma siete pronti ad attraversare anche il battesimo di sangue, cioè a vivere tutto questo nel martirio. La risposta dei due discepoli, probabilmente una risposta incosciente in questo momento, è: lo possiamo. E Gesù non nega loro che berranno al calice e riceveranno il battesimo, però nega loro i due posti nel regno dei cieli, o meglio, dice loro che quei posti sono riservati a coloro per i quali è stato preparato. Anche su questo aspetto gli studiosi si sono interrogati a lungo, dicendo: ma chi sono coloro per i quali questi due posti sono stati preparati? Alcuni studiosi ritengono che siano i due briganti che vengono crocifissi con Gesù sulla croce. Gli evangelisti sottolineano in genere la loro posizione, uno alla destra e uno alla sinistra. Altri dicono che non sono i due briganti, ma sono Mosè ed Elia che nella scena della trasfigurazione appaiono accanto a lui alla destra e alla sinistra. Come piace vedere in questa immagine non tanto posti riservati a due persone, ma un'evocazione della partecipazione piena al regno del risorto, cioè i primi ministri, quelli che stavano alla destra e alla sinistra del re, erano i suoi consiglieri per eccellenza. Ecco, Gesù si aspetta che ogni suo discepolo acquisti la dignità di essere figlio insieme a lui, figlio con lui davanti al Padre, e quindi consigliere per eccellenza. E nulla esclude che il posto alla destra e alla sinistra, in un certo senso, in maniera simbolica, lo possano aver ricevuto proprio Giacomo e Giovanni. Noi sappiamo dalla tradizione che Giacomo fu il primo apostolo a morire martire, e Giovanni l'ultimo. Quindi primo e l'ultimo sembrano essere posti quasi agli estremi del gruppo dei dodici, occupando in un certo senso, anche se in modo diretto, il posto alla destra e alla sinistra che avevano desiderato. Certo, una cosa colpirà al momento in cui ci troveremo davanti a Gesù sul Golgota, e colpirà la totale assenza di questi due discepoli, e quindi la loro baldanza nel farsi avanti da Gesù con quel grande vogliamo che dice non solo un desiderio ma un esigere qualcosa dal loro maestro, dopo che Pietro aveva detto: bene, noi abbiamo lasciato qualcosa, cosa faremo in cambio? Constatare poi il vuoto lascia un pochino scontenti, lascia un pochino rattristati. Quindi, come notate, la seconda reazione che viene presentata in questo capitolo, quella di Giacomo e Giovanni, continua ad approfondire il tema delle persecuzioni, o meglio il tema della sequela di Gesù. Cosa vuol dire seguire Gesù? Seguire Gesù significa riuscire a essere esposti a lasciarsi esporre alle persecuzioni, ma soprattutto riuscire a vivere un atto profondo di consegna, che per Gesù si è concretizzato in quei sei verbi molto esigenti che si compiono poi nella risurrezione, e per Giacomo e Giovanni comporterà anche lì lo scandalo davanti al mistero della croce. Ci prepariamo ora al terzo momento, al terzo brano, quello in cui a reagire sarà tutta la comunità dei 12, o meglio dei 10, che reagiscono all'intervento di Giacomo e Giovanni. Ma anche qui, prima di ascoltare il testo, lasciamo un breve stacco musicale in modo che ciascuno può riprendere quanto detto e interiorizzarlo. Eccoci quindi al terzo brano, raccolto nei versetti dal 41 al 45 del capitolo 10, dove dopo l'intervento di Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, constatiamo una reazione immediata degli altri 10. Ascoltiamo il brano. Sentendo tutto questo, i 10 cominciarono a indignarsi verso Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamandoli a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che credono di governare le nazioni esercitano su di esse la loro signoria, mentre i grandi esercitano su di esse l'autorità. Tra voi però non è così. Ma se qualcuno vuole diventare grande tra voi, sia vostro servo. E se qualcuno vuole essere il primo tra voi, sia schiavo di tutti. Infatti il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti». Ecco, questo testo chiude un pochino le tre reazioni che abbiamo visto estendersi da Pietro, Giacomo e Giovanni, poi tutta la comunità dei 12, e ha il suo climax, il suo punto più alto, più enfatizzato nella frase finale, cioè il servizio è servire e dare la sua vita in riscatto per tutti. È ovvio che lì si compie all'estremo grado l'elemento della sequela, la dimensione della sequela. Ora cerchiamo di capire la reazione, la risposta che Gesù dà alla reazione dei 10. La reazione dei 10 viene presentata come un'indignazione, una sorta di scandalo di fronte a Giacomo e Giovanni, uno scandalo che porta quasi a una separazione, a una divisione all'interno della comunità. Gesù quindi, come primo atto, li convoca a sé, cioè il tornare da Gesù significa ristabilire l'unità in questa comunità che rischia di essere lacerata. Da un lato Giacomo e Giovanni che vogliono i primi posti, gli altri che si sentono offesi per la richiesta che questi due hanno fatto senza pensare alla comunità. Quindi il tornare da Gesù, l'essere convocati, chiamati vicini a Gesù, avvicina a sé tutti gli elementi della comunità. Questo è un insegnamento che vale per sempre, che varrà anche nel futuro, nella storia. Quando ci sono separazioni, divisioni all'interno di una chiesa locale, di una comunità cristiana, di una comunità religiosa, non sono le parole che sanano. Certo, le parole servono, le parole aiutano a fare una verifica. Non sono dinamiche di gruppo che permettono di sanare il cuore dentro le ferite del cuore. Bisogna avvicinarsi a Gesù. Solo nel momento in cui ci si avvicina a Gesù si colgono cioè le cose in una prospettiva altra che non è quella umana, ma quella che proviene dallo Spirito, quella che proviene da Dio, si ristabilisce la dimensione della comunione vera e propria, altrimenti la comunità resta separata. Ecco allora la dimensione di Gesù, la prima cosa che fa, li chiama a sé. E poi questo chiamare a sé si traduce in un insegnamento concreto che parte dall'esperienza. Gesù dice: voi sapete che coloro che credono, è interessante questa sfumatura, coloro che credono di governare le nazioni esercitano su di essi la loro signoria. Cioè Gesù punta il dito sull'esperienza che loro stanno facendo ogni giorno. Ogni giorno sono sotto il potere romano. L'imperatore crede di governare la terra, ma non sa che il suo è solo un potere umano. Però con questo potere umano schiaccia gli altri. E allora Gesù fa appello a questa esperienza quotidiana dei discepoli per dire: tra voi però non è così. Interessante, lo sottolineo, l'utilizzo del presente. Gesù dice, non dice tra voi però non sarà così, dice non è così. E questo utilizzo del presente in questo contesto è un po' come la prima pietra della carta costituzionale della nuova comunità, della Chiesa che Gesù sta inaugurando con questo gruppo dei dodici. Cioè tra i dodici non ci può essere un atteggiamento di superiorità di uno dall'altro, di uno a scapito dell'altro, ma una dimensione totalmente diversa. Ed è la dimensione che viene scandita attraverso due sostantivi, quello del diaconos e quello del doulos. La dimensione della diaconia richiama il servizio, la dimensione della douleia richiama invece la schiavitù. E qua noi dobbiamo stare attenti, perché nella nostra immagine, nel nostro immaginario, la schiavitù richiama spesso dei luoghi comuni che sono legati a periodi storici più vicino a noi, che vedono nella schiavitù una condizione esclusivamente umiliante, dove gli uomini sono ridotti allo stato di proprietà di un altro senza nessuna dignità. Ora, va detto che nel contesto dell'impero romano le cose non andavano esattamente così. C'era certo questa dimensione, ma ce n'erano anche l'altra. Teniamo presente che l'impero romano si reggeva sullo status degli schiavi, che rappresentavano circa un terzo della popolazione. Ovviamente c'erano gli schiavi che vivevano una situazione veramente umiliante, e c'erano schiavi che invece avevano ruoli importanti, quindi c'erano schiavi responsabili dei beni dei loro padroni, schiavi che godevano di un'ottima istruzione, che potevano acquistare la condizione di cittadini romani per la loro lealtà, la loro dedizione. In altre parole, quando Gesù ci invita alla schiavitù, non ci invita all'annullamento della nostra dignità, assolutamente no, o non ci invita alla negazione della personalità di ciascuno di noi. Nessuno deve annullare la propria personalità. La propria personalità è fatta di doni che devono essere messi a servizio. Richiama invece un investimento totale del proprio essere a servizio di quell'incarico che viene dato, che è stato ricevuto. E in questo caso l'incarico corrisponde a una vocazione, la vocazione di seguire Gesù. In altre parole, il significato di questo invito di Gesù viene dato dall'esempio che Gesù è lui stesso, quando dice: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Ecco la diaconia, il verbo utilizzato è proprio il verbo diaconeo, e dare la vita in riscatto per tutti. Questo atto di consegna che diventa il dare la vita in riscatto, il termine utilizzato ha suscitato e suscita ancora oggi un grande dibattito a livello teologico, cosa vuol dire questa immagine del riscatto, cioè la capacità di farsi carico di tutte le situazioni, da quelle più facili da assorbire a quelle più difficili da gestire, per restituire all'uomo la vita profonda che gli manca, la libertà profonda che gli manca. E e l'espressione utilizzata è proprio lutron antipollon in greco, cioè il riscatto per molti, che nella tradizione però del primo secolo, che ha sullo sfondo lo strato appunto ebraico in cui vivono le comunità, quel molti indica la moltitudine globale, cioè la totalità delle persone. Se voi avete buona memoria, non farete fatica a ritrovare in questa espressione, dove si compie la sequela di Gesù nei confronti del Padre, quello che ogni giorno noi ascoltiamo durante la celebrazione dell'Eucaristia, nel momento della consacrazione. Ecco, lì il dono della vita si ripresenta, nella consacrazione del pane e del vino, lì ognuno di noi riceve nuovamente quella chiamata alla sequela, quell'invito a misurarsi con una sequela che è esigente e che richiede la comunione delle chiese, la comunione della Chiesa, per seguire fino in fondo Gesù. Quindi vedete, cari ascoltatori, come il brano che abbiamo ascoltato quest'oggi, da un lato ci permette di rispecchiarci nella reazione di Pietro, prima, di Giacomo e Giovanni, poi, della comunità intera nel terzo momento, ma nello stesso tempo ci suggerisce quegli elementi che dobbiamo tenere presente nella nostra sequela. Il primo elemento l'abbiamo visto con Pietro, è la capacità di stare all'ultimo posto. Secondo elemento l'abbiamo visto con Giacomo e Giovanni, è l'invito alla consegna di sé, con tutto quello che questo elemento della consegna di sé comporta. Facile a dirsi, ma viverlo è un'altra cosa. Il terzo elemento l'abbiamo visto di fronte alla reazione dei dodici, è prima di tutto l'avvicinamento a Gesù per ristabilire la comunione e poi vivere una sorta di servizio che porta al dono per eccellenza della vita. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, e lasciamo ora un altro stacco musicale prima di aprire, dare spazio ai vostri interrogativi, ai vostri interventi. Come sapete, in questa nostra trasmissione i vostri interventi sono preziosi. Sono sempre più convinto che le luci che Dio dà di fronte quando ci mettiamo a confronto con la parola di Dio non sono solo quelle che vengono da colui che spezza la parola, il sottoscritto in questo caso, ma anche dalle ulteriori sfumature che possono nascere dalle vostre domande o dalle vostre sottolineature. Vi chiedo possibilmente di rimanere legati al testo che abbiamo ascoltato e di essere chiari e concisi nelle vostre domande o sottolineature. Lasciamo spazio a un breve stacco musicale. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Ah, buonasera Don Giacomo, mi chiamo Martino e telefono da Bologna. Sì, mi dica Martino. Ho fatto alcune considerazioni sulla sua catechesi. Volevo chiedere se io, che non ho lasciato padri, madri o sorelle, fratelli, campi e case per il Signore, però ho lasciato la salute, perché dopo un grave incidente sono rimasto gravemente invalido. Quindi volevo sapere se l'accettare con serenità la mia malattia, la mia condizione di handicap, è ugualmente valido per ottenere il centuplo qui e la vita eterna nel futuro. Certo. Poi volevo chiedere anche se qual è il battesimo che Gesù dice di aver ricevuto e che anche Giacomo e Giovanni dovranno ricevere. Ecco, ascolto per radio. Allora ti ringrazio Martino per questo tuo intervento, in cui condividi anche qualcosa di personale, in questo caso la tua malattia. Ovviamente tra le cose che vengono elencate nel brano di Marco sono elencate le relazioni, le proprietà, però quell'elenco potrebbe essere molto più lungo. e ti assicuro che a volte è molto più difficile accogliere o lasciare, ecco, la situazione di una salute che magari lasciare un fratello, una sorella, tanto più se una persona non va tanto d'accordo, quelli li lascia molto volentieri. Invece una cosa che uno non vorrebbe mai lasciare è la salute. Non so, sarà capitato anche a te, Martino, di sentire frasi del tipo quando si chiede a una persona: come stai? Tutto bene, finché il Signore mi lascia la salute. Sono cose, oppure purché mi lasci la salute, sono espressioni tipiche che dicono quanto noi siamo legati a questa dimensione, che pur non è la dimensione essenziale della nostra vita. Quindi quando noi riusciamo a vivere situazioni diverse, perché per un disegno misterioso che si inserisce in un incidente, i motivi possono essere più vari, che fanno parte comunque di un disegno misterioso che a noi non è dato da capire, da comprendere in tutti gli aspetti, certo che questo rientra in quelle dimensioni che caratterizzano la vocazione di ciascuno. E mi permetto anche di sottolineare che queste parole Gesù non le ha dette solo per i preti, le suore, i religiosi o le religiose o i volontari, ma le ha dette per tutti, valgono per tutti i chiamati, dal bambino che accede alla fede fino all'adulto, all'anziano che si prepara ad entrare nella comunione con Dio. È una chiamata che riguarda tutti, al di là dello stato di vita. Qual è poi la seconda domanda, qual è poi il battesimo di cui Gesù sta parlando? Gesù sta parlando del battesimo che già sta vivendo, cioè dopo una prima fase del suo ministero pubblico in cui Gesù ha suscitato l'entusiasmo, il plauso, l'aumento delle folle attorno a sé, Gesù comincia a vivere l'esperienza del rifiuto. Vede attorno a sé occhi che non lo guardano con un atteggiamento di accoglienza, vede la resistenza delle autorità religiose, sale a Gerusalemme e sa che a Gerusalemme si prepara una pagina oscura della sua vita. L'abbiamo ascoltato annunciando per la terza volta il mistero pasquale, scandisce bene quello che lo attende, lo scandisce in quei 6 interventi che dicono praticamente che lo aspetta la croce, lo aspetta il rifiuto, lo aspetta la morte. Quindi Gesù sa quello a cui deve andare incontro, e proprio questo viene identificato con il battesimo. Un battesimo di sangue per lui, che diventa però un battesimo di rinascita per l'intera umanità, di cui lui si farà carico sulla croce. Grazie davvero per questo tuo intervento e buona serata, Martino. Sì. Buonasera, con chi parlo? Buonasera, io chiamo dalla provincia di Teramo. Sì. Forse lei adesso mi ha appena risposto alla domanda che volevo fare, però siccome la radio stenta non ho sentito bene. Certo. E la mia domanda è questa: questi calci che Gesù chiede, che i discepoli vogliono bere, è lo stesso calice che bevono alcuni santi per raggiungere la santità? Questa è la mia domanda. L'ascolto per radio, grazie. Allora, grazie anche a lei, ascoltatrice, che ci permette di riprendere proprio l'immagine del calice. L'immagine del calice, dicevo nella presentazione, è un'immagine che richiama un simbolismo biblico molto forte. Il calice in genere rappresentava sia un segno di comunione, quindi un elemento di profonda coesione tra due persone. Il bere allo stesso calice era in genere segno di un'alleanza che veniva stipulata tra due persone. Il calice è un'immagine che viene utilizzata anche per indicare una vocazione, un particolare disegno che ci poteva essere su una persona. E infine il calice viene utilizzato per indicare il castigo, per cui nella tradizione profetica, nella tradizione apocalittica, le coppe o i calici e che vengono riversati sulla terra o sulla persona indicano in genere dei castighi che si stanno compiendo. Quindi è un'immagine duplice che rappresenta da un lato una vocazione, dall'altro un qualcosa di esigente. Se voi ricordate, questa immagine torna nel contesto del Getsemani, nel contesto della preghiera, dove Gesù dice: allontana da me questo calice. Ovviamente il calice è la vocazione, cioè il disegno che si sta per compiere nella passione morte di Gesù, che però indica anche la piena comunione con la volontà di Dio in quel momento. E infatti dopo questa preghiera Gesù dirà: non la mia ma la tua volontà sia fatta, cioè accetto di bere a questo calice perché è segno della mia piena comunione con te. Ecco allora che richiama giustamente quello che la nostra ascoltatrice diceva, cioè questa immagine è passata poi nell'uso tradizionale per indicare spesso il calice del martirio o il dono di vita dei santi, il dono di vita che i santi fanno di sé. Di per sé, all'interno di ogni celebrazione eucaristica, il calice è lì davanti a noi per ricordarci tutto questo. Pensate con quanta leggerezza e incoscienza a volte ci accostiamo a questo segno che dovrebbe semplicemente far tremare o perlomeno invocare la forza di Dio ogni volta che lo accostiamo, solo che a volte ci dimentichiamo, siamo un po' come Giacomo e Giovanni che vedono nel calice il segno della partecipazione a un potere, coloro che erano più vicini al re ricevevano proprio come segno quello c'era un gesto che faceva parte dei riti di incoronazione dove i primi ministri bevevano lo stesso calice del nuovo sovrano per indicare la piena alleanza con lui. Ecco, Giacomo e Giovanni si presentano a Gesù con questa pretesa, però Gesù li mette in guardia e dice che bisogna stare attenti, il calice che lui offre non è solo questo, ma implica molte altre cose fino al dono della vita. Grazie anche a lei, cara ascoltatrice. Sì. Buonasera. Padre. Sì, con chi parlo? Mi chiamo Giuseppe, sì. E chiamo dalla provincia di Viterbo. Le volevo chiedere, per cortesia, alla richiesta che fanno Giacomo e Giovanni per conto della mamma o loro, a seconda dell'evangelista, Gesù sembra non indignarsi come si potrebbe aspettare una lettura superficiale, ma quasi schernirsi, nel senso che dice: beh, non sta a me stabilire questo. Io ho sempre pensato che lui, forse nella sua misericordia e comprensione delle debolezze umane, in realtà abbia colto quanto di illegittimo ma di umano esiste in quella richiesta. E quindi poi spiegherà le motivazioni per cui la richiesta non era nemmeno da formulare, perché non è così che ci si comporta nel Regno dei Cieli, ma lo fa senza, per esempio, scandalizzarsi come fece con Pietro, ad esempio, no? Va dietro Satana nei confronti di altre pretese, eccetera, umane. Ecco, la ringrazio, padre, se mi chiarisce. Grazie, sì. Questa confusione. No, grazie Giuseppe per questo suo intervento, perché effettivamente ci sono delle sottolineature preziose in quello che lei ha detto. Giacomo e Giovanni si presentano a Gesù secondo la logica effettivamente di questo mondo e proprio per questo Gesù non manifesta una reazione di scandalo, cioè le attese da parte dei discepoli erano legate al contesto in cui loro vivevano e proprio per questo Gesù a un certo punto interviene dicendo: sentite, voi sapete quello che succede attorno a noi, vero? Cioè vedete come si comportano i signori che credono di governare questa terra, lo vedete tutti i giorni, no? Quindi, bene, con me è tutto diverso. Cioè, a un certo punto Gesù si ferma e fa capire a loro che la logica del regno è totalmente altra rispetto a quella di questo mondo. E quindi dice, per voi però non è così, cioè cambiano tutte le dimensioni. Per cui se su questa terra si ragiona con un prima e un dopo, con una vicinanza a destra e a sinistra, nel regno futuro non esiste più questa dimensione di tempo o di spazialità. Le cose sono totalmente trasfigurate, c'è una modalità di rapporto totalmente nuova che non può misurarsi su quella di questa terra. Ovviamente noi cerchiamo di dare spiegazioni a partire dagli strumenti, dalla modalità di pensiero che caratterizza il nostro essere qui e ora, segnato dal tempo e dallo spazio, ma nella vita futura le cose saranno diverse. È questo che Giacomo e Giovanni faticano a capire. Mi permetto anche di riprendere dall'inizio del suo intervento il richiamo, l'immagine di questa madre dei figli di Zebedeo nel Vangelo di Matteo. Matteo è molto più duro nei confronti di Giacomo e Giovanni in questa scena, perché se da un lato la attutisce mandando davanti la madre, questa madre, tra l'altro la madre dei figli di Zebedeo, è una madre curiosa, molto curiosa nella tradizione di Matteo, quindi tutto non viene mai chiamata per nome, cioè emerge un nome ma non si è sicuri che sia quello. Poi c'è questo giro di parole che sembra quasi mettere i margini questa donna, la madre dei figli di Zebedeo, e uno si dice ma scusa, ma non sono pure i suoi figli, quindi cos'è questa madre che cerca di fa di tutto per dare il meglio ai suoi figli e viene pure messa in un certo senso da parte. E poi c'è una certa durezza da parte dell'evangelista nei confronti di questa donna, perché non solo incolpa lei della situazione di scandalo che si viene a creare nella comunità, come se questa donna crei divisione nella comunità, ma poi è l'unico evangelista Matteo che la mette al Golgota. Al Golgota mette la madre dei figli di Zebedeo, che è lì a guardare questo Gesù che viene crocifisso tra i due ladroni, uno alla destra e uno alla sua sinistra, e si trova spiazzata, perché lei aveva chiesto il posto alla destra e alla sinistra per i suoi figli. Bene, al Golgota non solo i suoi figli non ci sono, alla destra e alla sinistra sono presi da due ladroni. Quindi questo è chiaro che il lettore che ha seguito bene la narrazione sono indizi, sono elementi che non si dimenticano, e quando arriva lì si ricorda della scena che c'era stata prima, e quindi coglie il paradosso matteano che lo vuole mettere anche il lettore con le spalle al muro, dicendo attenti, perché a volte anche noi nella sequela rischiamo di cercare qualche cosa che non è per niente in sintonia con il discepolato che un giorno abbiamo abbracciato. Penso che sia un monito che tocca madri e figli allo stesso tempo e che ci può far riflettere. Grazie quindi Giuseppe per la tua domanda, le tue considerazioni. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera padre, sì. Mi chiamo Piero, sono un non vedente, pace bene. Innanzitutto io ho ascoltato la sua catechesi con attenzione e mi ha molto colpito quella parabola che dice chi mi vuole seguire si faccia servo di tutti e mi segua. Cioè, io ho un'idea un po' precisa praticamente su questo. Cioè, una persona molto ricca, il che capita ancora tutt'oggi, non farà mai una cosa del genere, per il semplice motivo che ha sempre la bramosia del denaro, e purtroppo le cose stanno sempre così. Come si può cambiare il cuore di queste persone? Proprio farmi capire che sbagliano. Io non vuole essere un giudizio, diciamo, su queste persone, ma purtroppo è una realtà. E un'altra cosa è sempre una frase di Gesù che disse durante la sua predicazione, una persona le chiese: ma come possiamo liberarci dei romani? Lui gli disse appunto: se noi conquistassimo i romani ci metteremo allo stesso loro livello. E purtroppo le guerre succedono ancora tutt'oggi. La bramosia della conquista, della terra, del potere. Come si può, diciamo, arrivare a far convertire queste persone che in un certo senso è un sistema di autodistruzione questo. Volevo sapere certo. una tua idea, chiedo certo. scusa. Grazie Piero per Grazie. Questo tuo intervento e anche per questa testimonianza, no, del tuo contatto con la parola attraverso l'ascolto. A te non è probabilmente possibile leggere se non con altri sistemi di lettura la parola di Dio, e l'ascolto diventa quindi il tuo modo di essere in contatto con la Bibbia, i Vangeli, queste catechesi. Allora, tocchi il tema della ricchezza nella prima parte della tua domanda. Il tema, al tema della ricchezza avevamo un pochino dedicato la trasmissione del mese scorso, no? In cui sottolineavo che nella letteratura biblica, cioè nei libri della Bibbia, noi notiamo una gestione diversificata di questo tema. Se nel Pentateuco la ricchezza viene in genere evidenziata come motivo di benedizione che viene da Dio, quindi il ricco è la persona che viene benedetta da Dio per diversi motivi, insomma, per la sua giustizia, notiamo un cambiamento nella letteratura profetica, dove la ricchezza diventa invece motivo di ingiustizia, cioè la ricchezza diventa proprio, sei più in sintonia, possiamo dire, con quello che dicevi tu, cioè la ricchezza diventa spesso causa di ingiustizia tra fratelli, per cui alcuni vivono in una situazione che rischia di essere senza dignità, mentre altri hanno tutto, cioè uno squilibrio non solo all'interno di una comunità di uomini, ma all'interno della natura stessa, del mondo stesso. La tradizione sapienziale ha una visione ancora diversa, una sfumatura ancora diversa, che è quella di cogliere nella ricchezza o una potenzialità o una tentazione, cioè è un po' come se la ricchezza mette l'uomo davanti a due vie, davanti a una scelta, che è legata alla gestione della stessa. Ora, Gesù nei suoi interventi del Vangelo si pone soprattutto in questa terza linea, cioè nella tradizione sapienziale. Non è detto che tutte le persone ricche siano delle persone che si comportano male o vadano a scapito degli altri. No, la ricchezza è un bene che deve essere gestito con equilibrio, nel modo giusto, facendo sì che sia messa a disposizione di molti, possa tornare a beneficio di molti. Certo, il rischio che tutto questo porta a uno squilibrio è molto alto. Qual è, poi ponevi nella seconda parte del tuo intervento una seconda domanda che è ancora più impegnativa, cioè come si può fare per avviare dei cammini di conversione? Io penso, ma la mia risposta ovviamente potrebbe essere molto parziale, penso che il vero cammino di conversione comincia quando noi facciamo il primo passo. Cioè non dobbiamo aspettarci dagli altri, pretendere che gli altri facciano il primo passo, se non lo facciamo noi. Cioè quando una comunità si muove, si incammina verso una direzione con slancio, con gioia, quelli che stanno attorno e vedono questo movimento, è più facile che si aggreghino a questa comunità gioiosa in cammino che non di fronte a una persona che magari lancia degli strali come un trombone da sambone, però non convince nessuno, perché non serve battere i pugni sul tavolo, non serve usare come a volte magari c'era delle minacce su, possono servire ma fino a un certo punto, è la testimonianza di vita quella che cambia profondamente le persone. E lo notiamo nell'atteggiamento che Gesù ha con le diverse persone che intervengono, che sono intervenute nel brano di oggi, prima Pietro, poi Giacomo e Giovanni, poi i dodici. E abbiamo visto che ogni volta Gesù non perde mai la pazienza né batte i pugni sul tavolo. Dice le cose chiare, ma la prima cosa che chiede ai suoi nel momento in cui vede che sono divisi, che la comunità rischia di spaccarsi, è quella di chiamarli a sé, quella di farli avvicinare a sé perché possano essere tutti anche loro un po' più vicini tra loro. Ecco allora una duplice, abbiamo una duplice possibilità, no, per avviare cammini di conversione. Il primo è quello di fare noi il primo passo e poi il secondo è proprio quello di avvicinarci a Gesù insieme agli altri, non da soli, e questo ci rende tutti un po' più vicini, un po' più sale della terra e luce del mondo. Grazie Piero per i tuoi interrogativi. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, dica, padre. Signora. Mi chiamo Lina e vorrei farle una domanda. Vorrei che lei mi spiegasse gentilmente in che consiste il servizio del diacono nella Chiesa. Sì. Grazie. Allora, la nostra ascoltatrice parte probabilmente dall'ultima espressione di Marco che abbiamo ascoltato, quando Gesù invita i suoi ad entrare nella dimensione della diaconia e della duleia, dove per diaconia abbiamo parlato, l'abbiamo riferita al tema del servizio, e la duleia al tema della schiavitù. Noi dobbiamo fare molta attenzione, cara ascoltatrice, alla differenza che esiste tra la tradizione neotestamentaria e quello che poi la tradizione ecclesiale ha sviluppato. Cioè, il diaconos nella Chiesa delle origini non era inizialmente una figura ministeriale nel senso di ordine sacro, come può essere vissuta oggi, vista oggi all'interno della Chiesa. Dobbiamo anche stare attenti a una certa visione clericale che noi possiamo avere oggi di alcuni ruoli, di alcuni servizi all'interno della Chiesa, come il sacerdote, il diacono, il sacerdote, il vescovo. All'interno della Chiesa delle origini le figure cosiddette ministeriali sono andate formandosi lentamente, progressivamente, in base alle esigenze della comunità cristiana. Noi sappiamo, ad esempio, negli Atti degli Apostoli che nel contesto della Chiesa di Gerusalemme, man mano questa Chiesa si estende, a un certo punto nasce il bisogno di alcune figure che si occupino dei servizi della carità e a loro viene affidata la diaconia della carità. Ecco, molti hanno visto in queste figure i primi 7 diaconi della Chiesa, però noi dobbiamo stare attenti, prima di tutto non ricevono mai il nome di diaconi. E sono dei laici scelti all'interno della comunità e hanno il ruolo di svolgere un servizio di carità. Man mano la Chiesa cresce nel tempo e matura nella percezione che ha di sé, matura anche nel numero che compone le diverse comunità, il diacono assume volti diversi. La diaconia per Paolo, ad esempio, nelle comunità di carattere paolino è l'investimento a tempo pieno per il Vangelo, per cui c'è l'apostolos che è il garante dell'annuncio del Vangelo, quindi c'è Paolo, ci sono alcuni suoi collaboratori di primo grado che ricevono questo titolo come Timoteo, Tito, Aquila e Priscilla, vengono chiamati proprio con il titolo di apostoli, cioè inviati ad annunciare il Vangelo, e ci sono altre persone che ricevono il nome di diaconoi. Sono persone, uomini e donne, per quanto riguarda la figura di Paolo, che investono totalmente la propria vita, ponendola anche in pericolo, per sostenere l'annuncio del Vangelo degli apostoli. Più avanti si andrà nel tempo, quindi dopo il periodo paolino, nelle comunità post-paoline, come quelle che ci vengono attestate dalla prima lettera a Timoteo, dalla lettera a Tito, dove la Chiesa si compone già più strutturata, i diaconi sono più vicini invece al ruolo che assumeranno successivamente nella Chiesa fino ad arrivare ai nostri giorni, per cui ricevono delle indicazioni ben precise, si hanno sposati una sola volta, devono dare un grande esempio di fedeltà alla parola di Dio, di attenzione ai poveri, non devono bere e così via. Ci sono tutte delle indicazioni ben precise che sono in genere associati o ai vescovi o agli episcopi, meglio, perché anche qua il vescovo, come lo intendiamo noi oggi, ha avuto anche di uno sviluppo nella storia, o ai presbiteroi, a quelli che erano gli anziani della comunità, i garanti dell'insegnamento che la comunità doveva custodire. Quindi l'immagine del diaconos, così come viene evocato come caratteristica del discepolo da Gesù, come viene sviluppato poi nella prima comunità di Gerusalemme, successivamente nelle chiese paoline, successivamente nelle chiese post-paoline, assume ogni volta un volto diverso, perché è un volto che va formandosi lentamente. Nel brano che abbiamo commentato stasera, quello che interessava sottolineare da parte di Gesù era che tutti dobbiamo vivere un atteggiamento di servizio radicale, dove questo servizio radicale si deve lentamente tradurre nella capacità di donare la vita per gli altri. Ovviamente, come dico spesso, facile a dirsi, a viversi è tutta un'altra cosa, cioè arrivare al dono della vita per la moltitudine come Gesù, all'uomo non è possibile. All'uomo è possibile solo nella misura in cui l'uomo fa crescere il Cristo dentro di sé. Il nostro discepolato, il nostro cammino di discepolato non è altro che questo, permettere a Gesù, che già vive dentro di noi, che già è risorto nei nostri cuori, di crescere, assumere sempre più spazio, più vitalità dentro di noi, fino al punto di, come dice Paolo, di arrivare a quel non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Se si arriva a questo, si arriva veramente a donare la vita in riscatto per tutti, come ha fatto Gesù. Quindi si porta a compimento quella dimensione della diaconia, del servizio, che Gesù oggi insegnava alla comunità dei dodici. Grazie mille, Lina, per questa sua domanda. Pronto? Buonasera, pronto, sì. Buonasera. Senta, volevo, padre Giacomo, volevo dirle una cosa. La parola di Gesù, che bisogna lasciare fratelli, padre, madre, avrete 100 volte di più, ma anche la parola di San Paolo sembra contraddittoria quando dice, cioè, anche la moglie e il marito come se non l'aveste, cioè. Perciò per quanto riguarda la domanda è: perché Gesù azzera un po' tutti questi diciamo attaccamenti? È per il distacco, è per il matrimonio che è indissolubile, o è perché senza di lui non si può fare niente? Grazie per la risposta e l'ascolto per radio. Buonasera. Grazie signora, perché effettivamente pone una domanda interessante. Ovviamente quando noi leggiamo un testo del Nuovo Testamento, dobbiamo sempre coglierlo nel contesto preciso in cui questo testo viene enunciato. Noi oggi abbiamo letto la reazione di Pietro, di Giacomo e Giovanni dei dodici nel momento in cui Gesù sta descrivendo quali sono le qualità della sequela, quali sono le esigenze della sequela, e quindi dopo aver assistito alla scena del ricco che se n'è andato praticamente deluso perché non è stato in grado di abbandonare i suoi beni, e Gesù richiama in modo negativo questa cosa, ecco, c'è la reazione spaventata dei dodici. E allora Gesù cerca un attimino di rimettere le carte a posto dicendo: ma guardate che chi segue me non è che viene lasciato a piedi, viene lasciato da solo, riceve il centuplo, ovviamente anche in persecuzioni, ma riceve il centuplo in tutte le cose, oltre a quel padre unico che dà unità a questo centuplo. Quindi questo è il contesto in cui ha parlato Marco. Il brano che lei evocava di Paolo è situato in un altro contesto, Paolo negli scritti più antichi, faccio riferimento alle lettere ai Tessalonicesi, è convinto di una cosa. Lui è convinto che Gesù può tornare da un momento all'altro, il risorto può tornare, la cosiddetta parusia, cioè il ritorno del Signore risorto su questa terra può avvenire da un momento all'altro, ed è così convinto di questa cosa che a un certo punto dice che non tutti dei presenti probabilmente gusteranno la morte, cioè ritiene, probabilmente includendo anche se stesso, che non tutti moriranno, perché il Signore quando arriverà molti saranno ancora vivi e passeranno direttamente da questa vita alla vita futura, senza sperimentare la morte. Paolo è molto convinto di questo all'inizio, per cui imposta anche il suo ministero di annuncio come l'ansia di portare a conoscenza del Cristo il maggior numero di persone, in modo che il maggior numero di persone possa accedere alla vita eterna subito. In questo contesto lui dice: guardate che il tempo si è fatto breve, cioè visto che il ritorno di Cristo può essere imminente, bisogna relativizzare le cose a cui noi diamo tanta importanza, per cui chi ha tante cose deve mettersi nell'ottica che non sono quelle le cose importanti, per cui viva come se non le avessero. Chi ha una moglie e imposta la relazione con questa, con la moglie sotto il segno della proprietà, teniamo presente il primo secolo è un contesto dove il rapporto uomo-donna non è quello di oggi, lui dice deve rompere questa logica per dare spazio a qualcosa di più importante dell'avere, del dominare su una persona. Ovviamente man mano, e questa è la bellezza dell'Apostolo Paolo, no? Noi abbiamo le sue lettere dove vediamo il maturare della sua fede. Più avanti noi vediamo che Paolo supera questa visione delle cose e si rende conto che ciò che il Signore vuole da lui non è che proclami il pronto ritorno di Gesù da un momento all'altro, ma che educhi le comunità cristiane a rendere vivo con la loro fedeltà al Signore Gesù qui ed ora. E allora se noi prendiamo il capitolo 7 ad esempio della prima lettera ai Corinzi, notiamo che Paolo cambia totalmente atteggiamento e parlando in un altro contesto del rapporto tra marito e moglie si trova di fronte ad esempio al caso in cui uno è credente e l'altro no, e allora dice diversamente da altri maestri del tempo, dice guardate, se in una comunità cristiana la moglie crede e il marito no, o il marito crede e la moglie no, ecco, l'uno rispetti l'altro. E allora la moglie con la sua fede santificherà il marito con la sua fede santificherà la moglie. Se però uno di loro, perché non condivide questa cosa, se ne vuole andare e vuole trasformare questa fede in causa di divorzio, quella persona lasciatela libera di andare, ma non siate voi il motivo della divisione. Cioè, non siate voi a dire bisogna rompere perché io credo e tu no. No, la moglie che crede santifica il marito. Quindi notiamo una, come dire, una progressione, una maturazione da parte del pensiero di Paolo, però anche qua lo dobbiamo cogliere ogni volta nel suo contesto, cioè le due espressioni non si contraddicono nel momento in cui noi le collochiamo nel contesto giusto, sono i contesti che cambiano, cambiando il contesto è chiaro che la sottolineatura fatta cambia, ma il discepolato è sempre questo, è sempre un discepolato radicale che chiede da parte del discepolo l'abbandono di ogni cosa per seguire il maestro. Grazie a lei per questa domanda. Buonasera padre. Buonasera, con chi parlo? Sono Elena da Bologna. Mi dica Elena. La mia domanda, io sono romena, mi scusi se non riesco adesso anche con le emozioni, la mia domanda è composta di quasi tutto ciò che si è parlato stasera. Ricchezza, visto che abbiamo sentito, no, le persone mentre sono vive muoiono, poi lasciano migliaia di euro a un cane o a un gatto, insomma. Poi io non sono ricca, io sono talmente povera, ho anche dei debiti pure, però grazie a Dio c'ho un lavoro e li finirò. Io mi sono offerta tutta al Signore, a Gesù Cristo. Ho detto: prendi me, prendi la mia vita. Ho dichiarato in confessionario la mia castità per sempre. Ho avvisato pure le mie figlie, ho detto prima di voi, Signore, ho sbagliato nei primi anni della vita, anche troppi, un po', 46 anni, però l'ho capita finalmente. Io cosa voglio fare nella vita? Cioè, io amo tanto e sono molto preoccupata delle persone anziane, visto come stanno le cose nel futuro non li vedo messi bene. Chiedo tanto al Signore che mi dia questo aiuto di poter istituire, che ne so, una casa famiglia tipo o qualcosa del genere, di poter avere naturalmente sempre della provvidenza e della bontà delle persone che hanno soldi, perché... Però adesso io ho una domanda, è un pochino buffa, però... faccio una chiarezza. Io tante volte ne ho pensato, non è che io la desidero così con tanto, con tutto il mio cuore, con tutto il mio di poter far realizzare questo, di badare queste persone che non hanno pensioni, che muoiono di fame, che sono assetati, che non sono accarezzati, che vengono picchiati, insomma. Non è che il Signore, temo che il Signore dice: va bene, ho letto il tuo cuore, tu vuoi questo, è già sufficiente per me, non si limita, no? Cioè, io posso pregare, cioè il Signore, anche se lui prende da me la tutta mia volontà, non è che mi lascia pure fare quello che... Signora Elena, la devo interrompere perché altrimenti non ho il tempo per risponderle, quindi prendo quanto lei mi ha detto fino a questo momento e cerco di dare una risposta semplice. Prima di tutto la ringrazio per la condivisione anche di questa sua vita, degli scorci della sua esperienza. In questo momento quello che sento di suggerirle, non conoscendo bene ovviamente tutta la sua vicenda, è quello di, prima di tutto, di non prendere mai delle decisioni da sola, ma di farsi accompagnare da una buona guida spirituale. Una buona guida spirituale ci aiuta anche a non passare da un eccesso all'altro, magari nella fretta. E nello stesso tempo la invito a restare in ascolto di Dio, mantenere un atteggiamento di ascolto nella preghiera. Quando il Signore vuole qualcosa da noi e noi abbiamo un atteggiamento di ascolto autentico, vero, lasciandoci consigliare, lasciandoci accompagnare, il Signore ci fa capire quando i tempi sono maturi per portare avanti un'iniziativa o un'altra, per tradurre il desiderio di servizio del nostro cuore in un'iniziativa di carità. Ecco, l'importante è avere queste due dimensioni, non fare da solo lasciandosi guidare da una persona saggia e nello stesso tempo restare in ascolto del Signore. Anche queste sono due dimensioni forti del discepolato di cui parlavamo stasera, non camminare da soli, quindi, e nello stesso tempo restare in ascolto del Maestro. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti, tutti quelli che sono intervenuti, Martino, Giuseppe, Piero, Lina, la signora Elena da Bologna, le altre due ascoltatrici di cui non conosciamo il nome, a tutti un sincero grazie per aver arricchito con i loro interventi la nostra trasmissione. E a tutti voi, cari ascoltatori, l'augurio più sentito e più vivo di buon cammino verso la Pasqua. Grazie anche a quanti di voi hanno interceduto attraverso l'offerta della propria sofferenza al Signore. Una benedizione a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.